abbiamo una collaborazione con il Bologna Festival e verranno riproposti qui alcuni concerti della serie Talenti. Per esempio il prossimo, cioè giovedì 18 giugno, il trio Chagall, che è un trio fantastico, vincitore del concorso Trio di Trieste. Torniamo sempre a Talenti, lunedì 22 giugno, con i cantanti vincitori del concorso vocale di Bologna, un concorso internazionale che ha avuto dei grandi vincitori, fra cui Ana Isabellazzo, Cristina Arsenova e Jorge Spino, con Claudia Tippolito al pianoforte. Poi torniamo a Pianofortissimo, cioè alla stagione, diciamo, madre, di cui io sono responsabile artistico. Martedì 23 giugno il trio pianistico di Bologna a sei mani all'opera, quindi trascrizioni e capolavori per pianoforte a sei mani, alla stessa tastiera. Giovedì 25 giugno torniamo a Talenti con il vincitore del premio Venezia, che avrebbe dovuto suonare in maggio. Lo riospitiamo qui, Elia Cecino, un ragazzino di 18 anni, favoloso, bravissimo, che suonerà musiche di Beethoven e Chopin. Il 29 giugno un altro talento, un grande talento bolognese, Nicolas Giacomelli, che ha 22 anni, vincitore di vari concorsi, fra cui quello di Parigi, che suonerà Bach, Beethoven e Schumann. Poi arriviamo al 30 giugno, di nuovo i talenti, e questa volta agli antichi orti di Via della Braina, con la Clarissa Bevilacqua e Federico Ged Crema, violino e pianoforte. Il 2 luglio ci sarà un concerto speciale con il robot teotronico che sfiderà il pianista Roberto Proseda al cortile dell'Artiginaggio, con musiche di Scarlatti, Mozart, Chopin, Rachmaninoff e Milò. Serata molto particolare. E poi la chiusura in bellezza lunedì 6 luglio con un grande pianista italiano di 43 anni, Davide Cabassi, che una quindicina d'anni fa si segnalò al concorso Van Cliburn e da allora sta facendo una carriera memorabile, sta incidendo l'opera integrale di Beethoven, ma suonerà le Kinderszenen e il Carnaval di Schumann, il Dulce Refrigerium del compositore contemporaneo Niccolò Castiglioni e i famosi quadri di un'esposizione che abbiamo sentito questa sera citati dai nostri jazzisti. Quindi ci sarà una specie di chiusura del cerchio.